Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Over? Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no! Germans? Forget it, he's rolling. And it ain't over now. Because when the going gets tough, the tough get going. Who's with me? Let's go! Come on! Antonio burning, through the bar station window. I see angels and bows beating trumpets of gold in the sky above the old rodeo. As I roll off my prison mattress and I drink from the station house sink, I can see that blotter in the water with my name bleeding newspaper ink. She was long, white legs and diamonds. I was a Long Island lawyer in black. I should have known as we walked through the World's Fair that she'd die with a knife in the back. The car drags his keys across the boards. I can see Mr. Payne beyond the window frame, in empty golden hills beyond the stars. I see San Antonio burning through the bar station window. I see angels on both beating trumpets of gold in the sky above the old rodeo. Penso questo stasera, mentre con le cuffie nelle orecchie cancello tutto il resto del mondo. La stessa canzone va avanti ormai da ore. La verità è che non la sento neanche più. Vedo solo uno spicchio di luna dalla finestra, che illumina leggermente le stradine di Notting Hill e ha il volto gonfio di chi è stato picchiato con un bicchiere di porto nell'occhio. Il pavimento della mia stanza potrebbe crollare da un momento all'altro sotto il peso dei vinili stesi come macerie dopo un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Circa il 75% di questi risale agli ultimi 10 giorni. Lo si nota dal fatto che quando ne prendo uno, il contorno lasciato dalla polvere sul pavimento è leggero, giusto accennato, mentre spostando quelli dei vecchi Clash si risalirebbe ad un leggendario colore d'origine del pavimento, di quello che neppure il vecchio inquilino potrebbe ricordare. Da 10 giorni a questa parte, 2 volte al giorno, dopo il lavoro alla vecchia libreria della signora Grace, mi inoltravo nell'ultimo vicoletto prima del mercatino sotto il ponte. Svoltavo a destra, dando priorità alla lavanderia. Poi mi fermavo in contemplazione della vetrina della Rough Records, una sorta di tempio musicale del quartiere. All'interno era così gremito e assemblato di oggetti, CD, vinili, manifesti alle pareti, così esattamente privo di un solo spazio vuoto, che sembrava dovesse collassare nel momento stesso in cui vi mettevo piede. Era il Louvre delle locandine da concerto. La Gioconda la salutavo ogni volta entrando, quella locandina ingiallita dei Pistols live a Brixton. La scritta Pretty Vacant in rosa shocking, da provocare un distacco alla retina ai ben pensanti conservatori che giocano a carte in Parlamento. Questo era ancora l'incipit di Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. Thank you. Siamo già a metà della seconda parte del volume numero 1 di questa settimana, numero 25. Vi ricordo che saranno 30 e poi basta. Giulio Caperdoni con voi, che risponde a due indirizzi di mail, uno ancora per qualche settimana, giulio@radiorockfm.com, un altro invece da imparare, giulio@rockfamily.it. E c'è anche un sito www.rockfamily.it, povero per ora, poi diventerà ricco. E sempre come punto di riferimento sulla rete rimarrà ovviamente anche myspace.com/eclettica. Tutti i giorni fra le 19 e le 20, tranne i festivi, e per esempio questa settimana, il 25 di aprile, lo è, quindi non saremo in onda in quel giorno. In questa seconda parte già ci siamo ascoltati più di un brano, anzi tre, a partire dai Dead Science, che abbiamo cominciato a conoscere settimana scorsa con A Throne of Blood, The Jump Off, questo è il titolo del pezzo, per poi aver proseguito con due canzoni che invece già ben conoscete, St. Antonio's Burning, canzone dylaniana da parte dei quattro The Felice Brothers, e poi Radio 4 con Quit Hiding. Rimaniamo negli Stati Uniti perché ci ascoltiamo un artista newyorkese di nome Mike Wexler, che dopo un EP omonimo è arrivato al primo album di lunga durata dal titolo Sun Will. Vi ho già detto nella prima parte di come spesso per i Muslims viene citato dai critici il nome di Jonathan Richman. Ecco, per Mike Wexler il nome che più frequentemente ho letto è stato quello di Nick Drake. Questa è Numa. We have to go all out. I think this situation absolutely requires a really futile and stupid gesture be done on somebody's part. We're just the guys to do it. Poi c'era Charlie. Charlie si nascondeva dietro il bancone tra le casse di vinili in arrivo. Accovacciata verso le cassette di plastica, scorreva con le dita sottili, bianchissime, con le unghie laccate di rosso, i profili degli album da riporre negli scaffali. Iniziava dalla A di ABBA, passava per i Buzzcocks, per i Clash, i Devo, arrivando a Ziggy Stardust. La osservavo furtivamente, avevo imparato il suo algoritmo di movimenti. Quando faceva molto freddo indossava un cappotto a quadretti neri e verde smeraldo. Ogni tanto sospirava per la stanchezza e portava dietro le orecchie il ciuffo di capelli neri che le sfuggiva sempre davanti agli occhi. Questo era ancora l'incipit di Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. Eclettica. Ultima stagione. Settimana numero 25. Volume numero 1. Indice. The Nero. Ivana XL. No Age. Jaguar Love. The Muslims. Forward Russia. Dead Science. The Felicity Brothers. Radio 4. Mike Wexler. Quiet Village. Corretto. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.